Bene, caro ascoltatore che hai avuto l'ardire di avviare questo podcast, non sappiamo bene per quale motivo tu l'abbia fatto. Per curiosità. Forse per curiosità. Quello di cui ti parleremo oggi saranno i microservizi. Questa sarà la prima puntata di una lunga serie. Lunga e tediosa serie. Tediosa serie che avrà come titolo Microservice Unchained. Sì, sì, certamente. Vabbè, è un bel titolo. Sì, c'è stato anche copiato da Tarantino. Da Tarantino, sì. Certo, le immagini. Quello che vogliamo fare è presentarti l'architettura microservizi che di questi tempi, diciamo, sta avendo sempre più risonanza. È la tecnologia di moda. La tecnologia di moda, sì, del momento, quindi tutti ne parlano e noi ci siamo detti perché non dovremmo parlare. Non adeguarci alla forma. Declinato però su Epsilon, quindi l'ambiente che abbiamo preparato per il cinema. Ma tu mi fai già sullo spoiler. Scusa, non volevo, scusa. Finta che non abbia detto niente. Vai tranquillo. Dicevamo che la puntata di oggi è un'introduzione generale all'architettura microservizi. La prima cosa che possiamo tentare, diciamo, è quella di dare una definizione di un'architettura microservizi. Delimitiamo il campo. Esatto. Io non faccio altro che ripetere quello che un certo Martin Fowler. Chi? Martin Fowler. Mai Martino sentito. Fowler. Mai sentito. È uno dell'underground. Bolognese, è un nerd. Sì, sì. Non faccio altro che riportare i punti che lui ha individuato diciamo, le caratteristiche principali di un microservizio. Sentiamo. Un'applicazione ha un'architettura microservizi quando è composta appunto da dei singoli servizi. Questi servizi, ognuno di questi servizi ha un suo processo. Quindi proprio a livello di sistema operativo è un processo separato, sì. E la comunicazione tra questi servizi avviene con un qualsivoglia meccanismo di inter-process communication. Possiamo già dire che la scelta prevalente è quella di HTTP. Sì, HTTP assolutamente, spesso REST sopra HTTP. Esatto. Per motivi che poi vedremo prossimo podcast, sì. Sicuramente approfondiremo, sì, più avanti. Diciamo, questa definizione generica è necessaria, cioè è generica perché comunque i microservizi non sono un'architettura che è nata formalizzata, che è nata. Ma cioè ti dici non è una cosa teoretica nata in un'università da qualche studioso, da qualcuno dei nostri utenti, esatto, qualche cliente. È una cosa che è nata, potremmo dire, dal basso, dalle aziende che si sono trovate a inventare dei modi di organizzare le proprie applicazioni che funzionassero diversamente da gli standard che c'erano e anche che ancora ci sono, diciamo, che funzionassero rispetto a quel brand commerciale che era SOA, che non ha mai funzionato per motivi che discuteremo, certo. Esatto. Stiamo già parlando dell'aspetto importante, diciamo, del perché sono nati perché è nata l'architettura microservizi. È nata in contrapposizione a quello che è sempre stato l'approccio fino a qualche tempo fa, che è quello delle applicazioni monolitiche. Quelle che facciamo noi. Che fa tanta gente. Queste applicazioni monolitiche, diciamo, hanno una serie di problemi. Il principale che andiamo ad elencare, diciamo, sì, in ordine a piacere, sì, più che principale, andiamo in ordine. Tu dimmeli, vediamo se mi ci riconosco. Allora, il primo è quello che un'applicazione monolitica richiede un deploy completo dell'intera applicazione ogni volta che io devo rilasciare anche solo una singola feature di un singolo modulo. Sì, sì, dice ho corretto un pezzo, ho modificato una singola parte e devo rideployare tutto. Esatto, devo aggiornare una piccola cosa, però nel farlo devo aggiornare tutta l'applicazione. E questa cosa ha molte conseguenze, specialmente dal punto di vista dell'evoluzione del software. Cioè rende è un freno a un'evoluzione rapida del software, perché specialmente quando l'applicazione è di notevoli dimensioni, spesso ci capita perché noi lavoriamo in un ambiente che potremmo definire enterprise come l'astronave, esatto. È all'ordine del giorno che io mi ritrovo a fare un bug fix in un modulo piuttosto che aggiungere una funzionalità in un altro, e poi ok, devo mettere in produzione il bug fix ma la nuova funzionalità non è ancora pronta, la nuova funzionalità mi richiede un aggiornamento al database, insomma sì, si bloccano l'un l'altro. Esatto, l'applicazione monolitica, essendo per definizione un'unica entità, ha questi problemi di aggregazione del deploy. Ma sai cos'è? Anche il fatto che più grande diventa, più il suo centro di gravità aumenta, cioè inizia a attrarre tutti i piccoli progettini dentro di lei, e quindi finisce che diventa sempre più grande. È un fatto proprio naturale, perché hai già quell'applicazione lì, non stai a fare un'altra piccolina, a rideployarla, a chiedere ai sistemisti tutti gli script per deployarla, metti già lì dentro. Ma infatti questo si può vedere anche come un vantaggio dell'applicazione, di un'applicazione monolitica. Certamente, è una sua caratteristica. Esatto. Però insomma stavamo parlando del che cosa ha spinto certe persone a cercare altro, a pensare a sistemi diversi, e quindi dicevamo questo aspetto del deploy dell'intera applicazione ha portato la gente a chiedersi: ma se io spezzo questa applicazione in parti più piccole, a questo punto potrei far evolvere il mio software in maniera più rapida, con meno vincoli dalle varie parti. Quindi non stai più pensando solo al problema del deploy, ma anche allo sviluppo, forse alla scelta della tecnologia di ogni singolo modulo che tutto, potrebbe essere, diciamo, spiegato. Tutto ne viene in conseguenza. Infatti uno degli altri punti importanti è il freno all'evoluzione tecnologica in un'applicazione monolitica. Certo. Io ho un'applicazione scritta in Java in e poi Perl diciamo 6. Pure 5 oppure in Perl 6, e voglio svecchiarla, voglio cambiare l'architettura, la tecnologia con cui è implementata, mi ritrovo a doverlo fare in toto. Certo, non dici non posso far partire con un piccolo esperimento e vedere se funziona, perché tutta l'applicazione è unica e quindi dovrei cambiarla tutta con un rischio molto più alto. Magari scopro che il Perl 6 non è così fantastico come mi dice il mio amico Lorenzo, anzi che saluto perché so che ci sta ascoltando, e quindi torno indietro. Nell'architettura microservizi invece questo problema non c'è, perché ogni servizio può essere, ha una sua indipendenza, in realtà anche in altri aspetti, comunque parlavamo adesso del linguaggio, può essere implementato in un qualsivoglia linguaggio, l'importante è che poi comunichi. Sì, ci sono degli suoi standard vicini. Diciamo, per essere un buon cittadino in un ambiente microservizio devi adottare degli standard che non sono vincolati però a un linguaggio. Infatti si parla anche di sistemi poliglotti, perché tu puoi scriverli in qualsiasi linguaggio. E infatti sposano spesso tecnologie aperte invece che protocolli privati o commerciali, insomma. Altri problemi delle applicazioni monolitiche sono il modo in cui scalano. Sì, quello sì. Se io ho un'applicazione, classica applicazione Java, web, per farla scalare, in pratica le opzioni che ho sono sostanzialmente una, quella del farla scalare orizzontalmente con un load balancer che mi distribuisca il carico. Sì, quindi istanziare un'altra copia della stessa applicazione, dello stesso monolite, usa tutte le risorse del monolite, quindi diciamo che usava un giga di memoria, la seconda istanza userà un altro giga, la terza istanza un altro giga e così via. E invece se fosse scomposto a microservizi la scalabilità funzionerebbe sicuramente meglio, perché un punto piccolo in cui c'è il problema di performance potrebbe essere replicato, cioè solo quello, non tutti gli altri servizi. Quindi nello spazio di un giga dovresti lanciare diverse istanze di questo microservizio che funziona male, che ha bisogno insomma di essere ridondato, che ha bisogno di... guadagni sicuramente. Infatti questi microservizi sono nati in ambienti dove le performance sono altissime, le esigenze di performance sono altissime. Adesso Google per esempio, Netflix ancora di più probabilmente, hanno dimostrato di anche Amazon. È stata forse la prima. Anche se non li ha chiamati microservizi, però certo, quello è un brand commerciale. Infatti abbiamo detto molte volte che il micro è un po' fuorviante. L'ultimo punto che mi sono segnato sui problemi dell'architettura monolitica è quello del mantenimento della modularità. Sappiamo tutti che è buona norma durante lo sviluppo di un software mantenerlo modulare. La parte che si occupa di un certo aspetto, diciamo, del nostro problema di business deve essere separata da un'altra parte che si occupa di un altro aspetto, in modo che insomma ci possa essere una certa separazione tra le due cose. Nelle applicazioni monolitiche, per quanto uno possa aver applicato buoni principi di progettazione e cercato di mantenere una separazione di questi moduli, diciamo l'ambiente stesso ti porta a prendere delle scorciatoie a volte che superano questi confini, specialmente quando il software diciamo acquisisce un certo numero di anni. Poi gli sviluppatori che ci vanno sopra sono diversi e magari invece che passare per un'interfaccia la chiamata viene nascosta, interna, chiama metodi statici, insomma diciamo che la comunicazione tra le varie parti non è più formale o formalizzata, è più spontanea. Si arriva a quello che è stato definito spaghetti code, e che sì, da cui tutti ultimamente, negli ultimi 10 anni, tutti si sono tenuti lontano da quello. Però il punto è che questo tipo di architettura, per come comunque ti può portare evolvono le esigenze. L'esempio più classico: arriva uno sviluppatore nuovo, come è capitato a noi. Lo sviluppatore nuovo, in un codice da migliaia di righe, deve fissare un buco, non ricontrolla tutto, magari lo fissa nel modo più veloce, bypassando interfacce, bypassando il sistema che era magari stato pensato dall'inizio dal progettista. Quindi la comunicazione tra i vari contesti specifici non è più formale, diventa nascosta, implicita, e questo li aggancia sempre di più, li aggrega uno all'altro. È il discorso dei diciamo moduli. Si vanifica di per sé la modularizzazione con cui magari è stata pensata. Ma sì, perché purtroppo in questo caso basta un legame, cioè tu l'hai pensato tutto separato, poi arriva una persona che in totale buona fede ti bypassa l'interfaccia, va direttamente ad esempio sul metodo, sulla classe concreta, ed è finita. Dalla parte opposta appunto stanno questi microservizi in cui necessariamente questi confini non vengono superati, perché sono per forza formalizzati, c'è anche la rete in mezzo, proprio, quindi c'è la rete in mezzo e tu non puoi che chiamare l'interfaccia pubblica del servizio. Questo ti obbliga a pensarla con un certo rigore, diciamo, fin dalle prime fasi della progettazione. Certo. Esattamente. Quindi insomma diciamo che in generale un'architettura monolitica fornisce un'entità che per dimensioni e per struttura in realtà poi è meno malleabile. Sì. Beh, a fronte di una semplicità di sistemistica, quindi del suo deploy, della sua manutenzione, rende più difficile comunque lo sviluppo o un buon sviluppo e anche la scalabilità, l'evoluzione anche, perché sì, magari l'evoluzione. Lo sviluppo ti può anche essere nell'immediato ti può risultare anche più semplice, sì, ma nel momento in cui devi aggiungere qualcosa ti attacchi attenzione, certo, a quello che c'è e lo fai prima, è l'evoluzione che, sì, che sì, proprio ne risente. Quindi abbiamo detto per cosa, da cosa le esigenze che hanno portato a questo nuovo tipo di architettura. E ricordiamo, è nata in azienda, esatto, dal basso proprio. Infatti il punto è proprio questo, che volendo andare più in dettaglio a capire, ok, tu mi dici, ok, allora c'è l'architettura microservizi, come, da cosa è fatta? Come dicevamo, non c'è una formalizzazione sì, non c'è delle da specifiche, dire, non esistono sì, delle specifiche di un'architettura microservizi. Non è da dire, vai da IBM e compra il prodotto e a casa ti trovi l'architettura microservizi. È fatta con fil di ferro e spago. Esatto, quindi quello che possiamo fare noi è andare a vedere come chi ha implementato un tipo di architettura vincente diversa da quella monolitica, e vedere come l'ha implementata e quali sono i punti in comune che sì, si trovano in questo tipo di architettura. Sì, perché molte di queste aziende non solo lo hanno fatto, ma hanno anche rilasciato con diversi articoli le modalità con cui sono riusciti a farlo e non di rado hanno rilasciato anche tutto il software, le librerie che hanno dovuto scrivere per realizzare questo ambiente. Ora penso a Netflix, ma anche Amazon uguale, Google uguale, e anche Real Estate, che è uno dei primissimi australiana, e anche loro, quindi insomma sono documenti importanti. Assolutamente. E, dicevamo, i punti, le caratteristiche che ritroviamo in un'architettura sì, a microservizi. Io partirei dal concetto proprio di componente. Viene fatto a volte l'esempio dell'impianto Hi-Fi per, ah, sì, certo, per dire, io si rifà spesso alla meccanica, esatto, all'elettronica, certo. Io ho un sistema Hi-Fi composto da più componenti, posso sostituire le casse piuttosto che l'amplificatore, piuttosto che il lettore CD, eccetera, eccetera, senza, indipendentemente, senza andare a cambiare tutto il mio impianto Hi-Fi. Nell'ambito del software il concetto è il medesimo. Noi diciamo, definiamo come componente una qualsiasi parte che può essere sostituita o aggiornata in maniera indipendente dall'ecosistema in cui si trova. E questa non è un'idea né innovativa né geniale. Assolutamente, perché è rincorsa no, dallo sviluppo software, dal designer fin subito dagli inizi degli anni 80. Negli anni 90 c'era Corba, che cercavano di creare dei componenti riutilizzabili. E a livello web ci hanno provato in continuazione, quindi dalle ASP, le GSP, chiunque in ogni ambito, le Java Server, sì, l'idea è sempre quella di creare questi famigerati componenti, che fino adesso componenti, però diciamo sì, ci si è riusciti così e così, ecco, insomma, speriamo che questo sia la volta buona. Dicevamo, nell'ambito software questi componenti si possono sostanzialmente suddividere in due parti, in due tipi. Quello più comune sono le librerie. Io ho la libreria che mi fa un certo lavoro e la includo nel mio progetto e ci comunico direttamente nel mio linguaggio, nel linguaggio che sto usando. E tutti gli altri progetti che hanno bisogno della stessa libreria la compilano o la linkano a runtime, esattamente, a DLL, insomma. E si ritrovano a essere dei client di quella libreria. Esattamente. E l'altro tipo di componente è invece quello del servizio, che invece viene fruito tramite una qualche forma di comunicazione interprocess communication. Nei microservizi ovviamente la suddivisione dei componenti avviene tramite servizi. Questo non esclude di, diciamo, includere alcune librerie, sì, anche perché se parliamo, non so, del mondo Java, hai librerie che ti fanno qualsiasi cosa, anche solo quella per gestire le stringhe, quella è certo, librerie si usano e anche fornite proprio l'ambiente a microservizi, ma sempre con molta cautela, ne parleremo poi quando ci arriviamo sopra, perché costituiscono appunto un legame, quindi diciamo che librerie aperte, standard come Spring Cloud, eccetera, sono utilizzate naturalmente, però bisogna sempre rammentarsi, appunto, come diceva anche Marco, che costituiscono comunque in qualche modo un freno, perché il problema delle librerie è proprio quello, cioè difficilmente tu riesci, per la tecnologia con cui sono sviluppate, è difficile comunque riuscire a cambiare la libreria senza doverla ricompilare, cioè costringere i client a ricompilarsi, quindi, o anche solo senza deployare, per quanto ci si abbiano provato, per esempio anche OSG, non so se lo conoscete, ma è un sistema che per caricare dinamicamente librerie in Java, quello usato da Eclipse, anche quello alla fine non è riuscito ad arrivare dove vuole. Comunque sto divagando. Dicevamo delle caratteristiche, sì, di un microservizio. Vado a elencarne alcune e poi brevemente ne parliamo. I microservizi sono organizzati attorno a una funzionalità di business. Questo è uno dei punti, sì, chiave. Costitutivo. Cioè hanno una responsabilità specifica di fare qualcosa in modo specifico, quello è il suo ambito d'azione, si chiama contesto specifico. E che abbia una valenza proprio per il business. Sì, è legato al dominio del problema. Esatto, al dominio del problema. Non alla tecnologia. Beh, non è un microservizio che si occupa della persistenza, è un microservizio che si occupa dell'anagrafica studente. Una conseguenza importante di questa cosa è quella del team che lavora a dei team che lavorano ai vari microservizi. La tendenza che si ha in questo ambito è quello di creare dei team, chiamiamoli full stack, in cui ci siano sviluppatori, ci siano progettisti, ci siano analisti, ci siano DBA, ci siano persone del controllo qualità che lavorano insieme a una particolare funzionalità di business. È un aspetto importante che diverge anche da come lavorano normalmente, diciamo, le aziende software vecchio stile, che non siamo noi. Ti ho parlato, scusa se faccio una digressione, ma ho parlato del Chupitza Steam, te l'ho accennato. Sì, mi ricordo, quello inventato da Amazon. Marco diceva prima che il gruppo è piccolo, infatti ad Amazon, insomma, hanno coniato il termine un gruppo da due pizze, cioè è un gruppo che si spama a mezzogiorno con quelle due pizze americane grandi, sì, quindi ce n'è da mangiare. Va bene. No, era per ribadire appunto che il gruppo deve essere piccolino e verticale sul contesto e non sulla tecnologia, assolutamente. Cioè si occupano di tutto quello che riguarda, dal deploy alla persistenza, ai controller, alla presentazione, tutto relativo a un argomento specifico. Sì, diciamo, seguono il ciclo di vita del software che stanno facendo, dalla raccolta del requisito all'utilizzo proprio in produzione da parte degli utenti. Una conseguenza di questo, che è un altro dei punti chiave di chi adotta questa architettura microservizi, è quella che si ragiona non a progetto ma a prodotto. Cioè, spiegami la differenza, che io ho difficoltà sempre a quella. Allora, diciamo, se tu ragioni in un'ottica a progetto, tu con il tuo team arrivi, hai delle specifiche, devi fare una certa applicazione, quando hai finito il progetto è chiuso, metti in produzione e si saluta la baracca e si va via. E qualcuno meno fortunato di te rimane lì a seguire, magari, certo, anche solo a livello sistemistico, che io lo impacchetto e poi mando una mail sistemisti e gli chiedo di ok, io ho fatto questo, ora tocca a voi, ciao, ho capito. In un'ottica invece a prodotto, il team che segue il prodotto lo segue, lo segue, diciamo, come in quello a progetti nella fase di costruzione di questo software, ma continua a seguirlo anche nel momento in cui il software è andato in produzione e poi, vabbè, ovviamente, certo, l'evoluzione, tutto quanto. No, è chiaro, i vantaggi mi sembrano piuttosto chiari, cioè nel senso che non ci sono più rimpalli del tipo c'è un baco, è sistemistico, è di sviluppo, dimmi cos'è, mandami log, te lo ricompilo, ti rimando il pacchetto, lo rimetti su, lo riconcio. Cioè, immagino che tutto questo palleggio alla fine sparisca. Sì, c'è questo, c'è il fatto anche che le persone sono portate a lavorare in maniera più consapevole, perché se io ti dico ok, mi serve quel software e basta, tu lo fai e poi, certo, non te ne preoccupi più. Se io ti dico c'è bisogno di questo software, tu lo fai e poi tu lo gestisci, certo, la cosa è diversa. Tu magari hai maggiore interesse a fare in modo che poi questo software funzioni veramente. Certo, e poi diciamo e rendere quando automatizzabile lo script, esatto, che non ci quando siano problemi, esatto, quando parte. Beh, certo, sì. Così però togli tutto, cioè togli molto del divertimento degli sviluppatori che lasciavano ai sistemisti le applicazioni di sviluppo. Purtroppo ci si sposta poi su altre cose, diciamo. Abbiamo altri modi per dire. Ok, andiamo avanti citando un altro punto, che è quello degli endpoint intelligenti, mentre i canali di comunicazione potremmo definirli stupidi. Beh, è una parola un po' grossa, canali di comunicazione. Ah, sì, certo. Perché specifichiamo questo punto? Perché sempre in contrapposizione con diciamo metodi e tecnologie che si sono usate fino ad oggi, è l'esatto opposto dell'approccio dell'Enterprise Service Bus. Ah, quello è terribile, quell'affare è terribile. E ha lasciato, come sappiamo, ha lasciato cicatrici, molti cadaveri, cadaveri lungo la strada. Chiunque l'abbia adottato, insomma, non è mai stato così smooth come appariva sul Deplian, perché quello è un affare invece venduto dalle aziende. Mi ricordo che dal 2005 in avanti frullavano volantini, brochure per comprare questi affari da IBM. Fatti il tuo Enterprise Service Bus. Ah sì, poi chi ce l'ha fatto da solo, quindi sì, ancora, cioè, proprio non credo possano ancora parlare oggi. No, penso di no. Dicevamo, questi Enterprise Service Bus erano fatti esattamente al contrario, lo strato di comunicazione aveva l'intelligenza e orchestrava degli endpoint stupidi che sapevano fare il minimo possibile. Sì, tutta la logica era in questi affari pesissimi, pesantissimi. Esatto. In un'architettura microservizi succede l'opposto. Il servizio, l'endpoint, è quello che ha la conoscenza del problema, è quello in cui sta la business logic proprio. È certo. E invece i canali di comunicazione non sono altro che un canale con il quale scambiare messaggi con altri servizi che hanno la conoscenza del sistema. Sì, è un questo ribaltamento. Sì, questo non toglie che ci possono essere delle parti che svolgono diciamo un minimo di orchestrazione quando. Sì, che però in questo ambito lo chiamano coreografia, proprio per distinto, detto sì, prendere per distanze, sì. La coreografia è quella del balletto, cioè ogni ballerino fa quello che gli pare e il coreografo tu stai un po' più di là, è un qualcosa di più light, insomma. Lo so perché ho fatto danza. Guarda, mi dispiace non aver potuto assistere. Vuole videocassette? Purtroppo non ho più il videoregistratore. Una cosa che ho sentito dire, perché ovviamente io non mi sono inventato niente, sto solo ripetendo a papera quello che ho sentito dire da persone molto più brave, è che questo approccio, ben pensandoci, non è altro che quello di internet. Beh, cioè, certo, in internet come la conosciamo, il server ha l'informazione, ha l'intelligenza, e la rete in sé non è altro che un canale per collegare queste intelligenze, e come abbiamo visto, insomma, mi pare che funzioni, devo dire. Ma infatti questi tool comunque sono tutti ispirati dal funzionamento di protocolli aperti, l'HTTP, l'HTML come linguaggio, il funzionamento dei browser, REST stesso sapete bene da dove salta fuori, cioè l'HTTP lo implementa nativamente, le cache, anche le cache sono utilizzate, sono implementate nativamente, e quindi è un mondo che viene da lì, insomma. Bene, detto questo, il punto successivo che affrontiamo è quello della gestione dati decentralizzata. È un punto importante e con delle conseguenze importanti. Ma cosa intendi? Intendo che nel momento in cui io sto ragionando a servizi, sì, nel momento in cui ognuno di questi servizi ha la competenza su uno specifico ambito, una specifica funzionalità di business, come sì, dicevamo, contesto specifico, esattamente, questo stesso servizio ha la competenza e la gestione dei dati che lo riguardano. No, no, mi sembra che tu stia dicendo un'eresia, cioè tu, perché forse ho capito male, io spero di aver capito male. Cioè, sicuramente hai capito male, però prova a spiegarmi cosa hai capito. Vabbè, allora io ho capito che praticamente ogni servizio ha il suo database separato da quegli altri. Esattamente. Dai, beh, è l'integrità. È stupefacente che tu abbia capito. L'integrità referenziale, scusa, noi, le nostre applicazioni, caro Rosy, le nostre applicazioni producono soltanto dati, quello che fanno è scrivere su database, produrre dati, cioè, tu non li vuoi far produrre senza l'integrità referenziale, cioè sparsi su tanti... Esattamente, esattamente. Non voglio adesso infilarmi in questo discorso perché comunque ha delle conseguenze e lo tratteremo e va trattato a dovere. Io scherzavo, lo tratteremo con calma, insomma. Però è stupefacente, mi sorprende, perché fino adesso in tutte le nostre applicazioni, punto di integrazione tra le varie applicazioni che per esempio ho progettato io, abbiamo fatto noi, era sempre il database, diventava sempre più ciccione. Sì, sì, tutto l'abbiamo visto, da lì. L'abbiamo visto tutti. Con procedure, insomma, diventava il centro. Cioè, se dovessi dire il mio centro di riferimento del mio modello di dominio, spesso era il database, neanche la sua rappresentazione in Java, ma proprio le sì, sue sì, tabelle. E proprio perché l'abbiamo visto tutti, sappiamo anche, siamo ben coscienti anche dei problemi di questa cosa. Ne potremmo citare tanti. L'ultimo ieri l'altro. Cosa ti è capitato? In una nota università. Sì, di cui non faremo il nome. Non farò il nome. E c'è stata una corsa al sito web perché chi arrivava prima aveva il posto. Sì. E il database ci ha salutato. Cioè, scalavano gli application server, ma il database aveva quel numero di stanze e riusciva a stare dietro, le procedure rallentavano e in questi ambienti il rallentamento è la fine. Quindi diciamo c'erano le immatricolazioni? Erano delle prove d'ammissione. Sì, non vorrei entrare troppo nei dettagli per non essere citato. No, era solo per dire, poniamo che fossero le prove d'ammissione, l'apertura delle prove di ammissione per assurdo di una certa università, che non sappiamo chi sia, non da queste parti, ha causato il fermo di tutte le applicazioni sì, dell'università stessa, singolo... perché lo stesso database poi... Sì. Integravano su quello tutte le applicazioni, quindi un singolo modulo di una singola applicazione, invece che cioè non funzionare lui, ha bloccato tutto un ateneo. Esattamente, è una cosa che abbiamo visto e questa diciamo è quella che fa più male, che magari però non capita sempre. No, però ce ne sono certe che succedono sempre. Mi viene da l'esempio di quelle che capitano sempre sono quelle di trovarsi gente che ti va a scrivere i tuoi sì, dati senza che tu neanche lo sappia, in certo, una maniera che ovviamente non è quella a cui pensavi tu, perché sennò magari neanche te ne saresti accorto. Certo, oppure anche il discorso che visto che molte applicazioni diverse insistono sulle medesime tabelle, diventa difficile modificare la stessa tabella, fare un refactoring di questo database, perché dovresti fare un refactoring di tutte le applicazioni che ci vanno direttamente. Esatto. Un altro problema che mi viene in mente è il discorso delle procedure, che molta logica inserita nel database finisce per dare dei problemi di compilazione. visto che le procedure, ad esempio, in certi linguaggi come quello di Oracle, PL, SQL, sono più difficili da mantenere, non sono neanche ad oggetti sostanzialmente. Spesso il codice è ripetuto, le dipendenze non sono lineari ma circolari, e questo in fase di ricompilazione di un package è capitato in un'altra università, non la stessa di prima, in un'altra università dove sono stato. È capitato che producesse un dei package fermi, scompilato, un package da ricompilare ti crea un fermo in produzione, cioè sostanzialmente un fermo in produzione. Quindi no, io capisco che dia problemi, ma non riesco a immaginare come tu possa tirar fuori dal cappello una soluzione. Allora, non ti voglio parlare adesso della soluzione, ti voglio parlare, immagina una cosa, questo ambiente ideale in cui il database è per, spezzato per ogni singolo servizio, e i dati, questo servizio è competente per questi dati, quindi li espone all'esterno in un qualche modo, chiunque ne ha bisogno passa di lì. Questo significa, cioè, ti dà, certo, no, ti apre a vedere i vantaggi, chiaro, cioè, vantaggi. Se fosse possibile, chiaro, io sono il servizio che si occupa dell'anagrafica studenti, tutti chiedono a me, il database lo faccio come pare a me, se lo devo rifattorizzare lo rifattorizzo io, nessuno ci mette il becco. Lo fai come ti pare a te, lo fai con la tecnologia che pare a sì, te. Sì, posso cambiarla, posso salvarla su un file system, su Cassandra, posso salvarla su MySQL, su Hadoop, posso salvarla col database che credo in base ai problemi che ho io. Perché magari i problemi che ha questo mio servizio non sono i problemi di un'altra parte dell'applicazione. Assolutamente no. Magari a me non interessa assolutamente nulla dell'integrità referenziale, ma scrivere in fretta sì, come in una chat, quindi potrebbe essere, potrei farlo con Hadoop. E altri invece hanno la necessità che l'integrità referenziale sia sempre verificata, allora ho un full transactional DB come PostgreSQL o Oracle, sì, va bene, anche Oracle. Va bene, andiamo avanti. Sì. Il punto successivo è quello dell'infrastruttura automatizzata. Sì, questo è. Qual è il discorso? Che questi ambienti a microservizi comunque hanno una loro complessità, perché ti trovi a maneggiare invece che un solo grosso pentolone. Infatti lo dicevamo prima. Ti trovi a maneggiare tanti piccoli servizi. Cioè, se rende più comodo lo sviluppo e la manutenzione del software per, per gli sviluppatori, insomma, diciamo, sicuramente complica un po' la vita dei sistemi, dei integratori di applicazioni, perché ha a che fare invece che con un monolite, diciamo, con 300 piccole applicazioni che cioè è un motore in cui si muovono molte parti, e sappiamo, infatti, che più parti si muovono più il rischio che qualcosa vada storto, cioè che si rompano dei pezzi. Per questo è fondamentale che sia automatizzato il più possibile la parte di delivery del software. È per questo che sono nate anche diversi paradigmi come quello della continuous delivery, evoluzione della continuous integration, e che stanno portando adesso addirittura al continuous deployment. Molto brevemente, continuous delivery, continuous integration, qualcosa fa automaticamente per me il pacchetto dell'applicazione. Già. Continuous delivery, qualcosa fa automaticamente per me, prepara il software e l'ambiente in modo che io possa fare il deploy in qualsiasi momento. Sì. Continuous deployment, il sistema automaticamente arriva proprio a farmi anche il deploy. Sì, senza bisogno di interventi di nessuno, ogni singola modifica, commit, push in git si traduce poi in deploy. E per fare questo sono necessarie, diciamo, delle tecniche. Io poi arrivo a mettere in produzione direttamente una nuova versione, ho bisogno di comunque restare l'aspetto del verificare che quello che sto aggiornando funzioni bene, non crei regressioni. Ma resta a maggior ragione, secondo me, perché il sistema è fatto da piccoli pezzettini ma sono tutti interdipendenti, e se se ne rompe uno, molti casi d'uso non funzionano più, vedo che diventi più complesso. Noi in questi podcast parleremo anche di questo, di tutte queste cose. Esattamente, parleremo nello specifico del deploy ci sarà una puntata dedicata solo a questo, in cui si tratteranno temi come blue, green, deployment, canary deploy. Ma gli spettatori potranno telefonare a casa? Sì, ah. Dopo diamo il numero. Ah, ok. Oltre al deploy, altro aspetto importante da automatizzare è il monitoraggio, perché tu ti trovi queste N applicazioni e ognuna interconnessa con l'altra, è fondamentale che tu sappia in che condizioni ognuna di queste è. Puoi intervenire in maniera rapida prima di un problema o a seguito di un problema. E niente, insomma, stiamo semplicemente dicendo quello che già sappiamo, che i sistemi distribuiti sono complicati e hanno delle grosse potenzialità, ci permettono di fare cose che con altri, con un sistema monolitico non potremmo fare, però perché funzionino a dovere hanno bisogno di una serie di strumenti ci permettono di gestire questa complessità. Certo. Strumenti, dicevamo, cioè tu me ne stai parlando solo a livello teorico o noi siamo stati così fighi da fornirli a menti qua? Cioè... ovviamente io parlo solo per sentito dire, quindi però pare che ci sia qualcuno che stia preparando qualcosa. Va bene, dai. Sai anche il nome? Ho sentito dire di Epsilon. Epsilon, una lettera greca. E questo è per lo sponsor, per la sponsorizzazione. È lo sponsor della giornata, che ringraziamo da subito. Potete comprare anche voi Epsilon, lo troverete nei migliori supermercati. E direttamente pronto sulla pasta di Cineca. Esatto. E concluderei con l'ultimo aspetto. Prima volevo dire una cosa, ma poi mi metto in mente quella scemata di Epsilon e mi sono scordato di dirla. Era il discorso del monitoraggio. Sì. Il monitoraggio è uno di quei punti di convergenza tra le varie applicazioni. Parlavamo prima di poliglottismo, cioè queste applicazioni possono essere scritte con le tecnologie più diverse. Uh-huh. Però devono aderire, per esempio, a una convenzione su come scrivono i log, in modo che il monitoraggio sia possibile. Quindi il monitoraggio è uno di quei punti imprescindibili, cioè di quelle richieste minime che si fanno ai vari servizi per poter entrare in una pass. Il monitoraggio è proprio un punto, per esempio, tipicamente ci sono i log, ma c'è anche una URL per verificare la salute del servizio. C'è una URL che sposta e deve esportare delle metriche, non so, il thread che sta utilizzando, la memoria, ecco. E quindi proprio è un punto importante. Per creare una di quelle belle dashboard che vanno tanto di moda. Anche questo adesso. Stavo concludendo con l'ultimo punto, che è quello del design for failure. Cioè sono cose progettate per fallire. Esattamente. Allora, questo design for failure io l'ho sempre fatto in tutta la mia carriera, i miei progetti, dico, sono sempre falliti. Sì, per esperienza tu ti sei reso conto. Ah no, mi stai dicendo che sono fallite e basta. Sì, cioè cosa volevi dire? Cioè, allora mettiamola giù diversamente. Tu nella tua esperienza, no, ti sei accorto che è impossibile avere la pretesa di progettare un sistema software che non fallisca. Ah sì, mi hai fallito. Oppure anche solo a utilizzare un sistema software che non fallisca. Sì, certo, sì. E quindi... Beh, non lo so, perché chi ha l'iPhone, io non ce l'ho, e mi dicono che invece quello non fallisce mai. Ah, vabbè, ma quello è un'altra cosa. Vabbè. È molto più sensato ragionare quando si sviluppa un software nei termini del io so già che il mio software prima o poi fallirà. Non so come, non so dove, non so quando, però è molto meglio se io quando progetto faccio in modo di essere pronto a fallimenti di sì, dei suoi vari componenti del mio software. Tipicamente ogni volta che faccio una chiamata in rete, quei microservizi ne fai. Esattamente. Mi devo sempre chiedere come mi devo comportare se questa chiamata non dovesse riuscire, se questa chiamata ci mettesse troppo tempo a rispondere, cosa dovrei fare se siamo tutti accodati qua perché appunto i tempi di risposta diventano sempre più lunghi. Ho una strategia di fallback? Ecco, questo è il punto. E qui dovremmo raccontare del Chaos Monkey, dei certamente. Monkey Test, raccontalo, divertente. Allora, è nato prima da Amazon e poi è stato portato alla ribalta da Netflix, questo Chaos Monkey. Cosa hanno fatto per essere sicuri che, diciamo, gli sviluppatori perché alla fine sono sempre quelle capre degli sviluppatori, certo, che si caricano sulle spalle, per essere sicuri che i loro sviluppatori progettassero sistemi affidabili, hanno detto: allora, noi adesso nell'ambiente di produzione, ogni tanto uccidiamo un'applicazione, un servizio, così uccidiamo un servizio, tiriamo giù una rete intera, spegniamo uno o più nodi dell'infrastruttura, rendiamo la vita un vero inferno, ma non ogni tanto, tipo una volta al mese, ogni tanto, sempre, ogni giorno, in produzione. In produzione, in produzione, sì, proprio in produzione. E quindi, cioè, la cosa assurda è che lo fanno, cioè, noi ogni volta che mi è capitato un fermo in produzione l'ho sempre visto come una disgrazia grossa, invece per loro è sistematico, perché tanto se non sono loro a farlo sanno che succederà lo stesso. Quindi questo richiede un cambio di mentalità, sì, perché io proprio nel modo in cui si io sviluppa, scrivendo, il mettevo il mio bel try catch, per esempio facevo una comunicazione in rete try catch, dico chi se ne frega, nell'eccezione non ci metto un print stack trace quando va bene quando va bene il log, se no print stack trace. Invece con una cosa del genere io sono costretto a pensare a quello che dicevamo prima, cioè come devo comportarmi, cosa devo fare. Anche perché ti ricordo si è detto chi ha sviluppato il software poi si deve occupare anche del suo mantenimento in produzione, certo. Quindi pensa che soddisfazione, se non vuoi che ti telefonino alla notte o al sabato, devi fare un sistema che sia il più affidabile possibile. Parlavamo di scherzetti per i nostri amici sistemisti, questo invece è uno scherzetto che i sistemisti fanno a noi tutti i giorni. Ti staccano una rete, ti staccano tre nodi dalla pass e siamo rimasti fregati. Quindi ultimo punto, questo cambio di mentalità, diciamo, o questa evoluzione della mentalità di sviluppo del software, che prevede il design for failure. A questo punto sono tutti aspetti che andremo ad approfondire in altre puntate. Concluderei. Volevo dire che alcune di queste altre puntate le abbiamo già registrate per fare delle prove e risentendole ci siamo accorti che comunque ci sono degli errori qua e là, delle sviste. Per esempio io chiamo continuamente binding context, insomma, e altro, insomma, diversi errori, però speriamo lo stesso che possano essere utili, presi così, insomma, alla leggera, come un'introduzione. Sì, insomma, sapendo anche che chi le ha registrate, sì, insomma, non abbiate grandi aspettative. Non abbiate grandi pretese. Noi, insomma, cerchiamo, diciamo più che altro che cerchiamo di stillare la curiosità. Sì, l'idea è quella lì. Poi siamo qua. Se qualcuno ancora ci sopporta dopo aver sentito questi podcast, può venire a parlarci, anche se ha delle perplessità o non siamo stati chiari in qualcosa. Niente, io con questo direi che ci siamo dilungati fin troppo. È stato un podcast lungo e anche per i nostri ascoltatori, assolutamente, poverini. Io ci non scusiamo. So se qualcuno è ancora lì all'ascolto. E niente, allora vi salutiamo e niente, ciao. Ciao, alla prossima puntata.